Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi ero riparato nel portico a guardare il temporale, quando all'improvviso vengo accecato da un lampo. Quando riapro gli occhi, mi ritrovo disteso sul pavimento dentro casa. Ciao, io sono Ideo, vivo a Roma, faccio l'architetto, ho una bambina meravigliosa e una moglie stupenda. Sì, è esattamente mercoledì e per quelli che conoscono un pochettino le ultime abitudini di questo programma, di Voi Siete Qui, il mercoledì una volta ogni tanto facciamo un live, viene qualcuno che suona in diretta dal vivo qui a Radio 24 a Milano e oggi ci sono i Virginiana Miller. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno a voi. Buongiorno a Simone, Matteo e Daniele. L'unico che ha il microfono per parlare e per cantare è Simone, quindi Simone parlerai diciamo un po' a nome di tutti. Sono sempre le 16:09. Oggi noi raccontiamo una storia, che è una cosa che facciamo ormai sempre, la storia di Amedeo, che parla di un fulminato, che detto così sembra orribile, però è proprio la storia di un ragazzo, di un uomo che da ragazzino viene colpito da un fulmine, sopravvive ed è qui a raccontarcela. Quindi la prima cosa che viene da chiedere è se siete mai stati colpiti da un fulmine, ma immagino che no. Se siete qui, no. No. Però qualcosa vi ha folgorato, Simone? Nella vita? Nella vita, sì. Ma oddio, sì, un sacco di cose, molte cose diverse. Questa domanda mi spiazza un po'. Non lo so, forse è la prima volta che ho visto dell'intimo su Postal Market, quando avevo 6-7 anni. Credo quella sia la cosa. Quindi molto prima che nascessero i Virginiana Miller. Molto prima, sì. Dunque, Virginiana Miller sono un gruppo livornese, si può dire. Cioè, non che geograficamente questa cosa vi contraddistingua in maniera particolare o vi segni in modo particolare. No, non facciamo, come dire, musica vernacolare, però credo che il fatto di essere nati a Livorno in qualche modo sia determinante per il modo di vedere il mondo, forse. Cioè, segna un po' chiunque, tu dici, sì, l'essere penso, nato non solo un musicista. Sì. I Virginiana Miller suonano insieme dal 1990. Giusto? Sì. Quindi avete 23 anni. 23 anni. Cioè siete dei ragazzini, dei ragazzi di 23 anni. Dei ragazzi di 23 anni. Quindi avete visto cambiare un pochettino le cose. Bene, direi che nel frattempo è cambiato proprio tutto. Ne parlavamo prima fuori onda e Simone adesso lo dice in maniera diplomatica, però prima ha detto tipo purtroppo è cambiato tutto. No, il digitale. No, diciamo sono in quell'età in cui si inizia a dire ah come si stava meglio prima, come era tu. In realtà è che eravamo più giovani e quindi insomma è normale che lo si rimpianga, probabilmente è meglio ora, non lo so. Detto questo, è uscito comunque da poco il vostro ultimo disco, a settembre, quando è uscito esattamente? Settembre. Voi potete parlare, anche se non avete il microfono, in realtà rientra qualcosa, quindi a settembre, disco che diciamo ha questa particolarità, che uno dei brani ha vinto il David di Donatello, ne parlavamo di Napolitano prima, perché l'avete conosciuto, perché i David di Donatello sono l'abbiamo visto famosi. Sì, di persona, insomma, alla cerimonia. Per il film di Paolo Virzì, Tutti i Santi Giorni. In realtà c'è una piccola cronistoria, no? Che il film, la sceneggiatura è tratto da un libro tuo, Simone. Sì, da un romanzo che avevo scritto io che si chiama La Generazione. Poi diciamo è stato uno di quei circoli virtuosi che a volte capitano nella vita. Io avevo scritto il libro, lui a quello insomma aveva deciso di ispirarsi, di prendere spunto per scrivere questo libro, mi aveva chiamato a collaborare un po' alla sceneggiatura. Poi da quello allora con i Virginiana abbiamo provate a metterci un pezzo appunto nella colonna sonora che si chiama esattamente Tutti i Santi Giorni, come il film. E con quello poi abbiamo vinto. Avete vinto il David Donatello. C'è questa piccola particolarità, visto che sono sempre molto eccitato dai rapporti che i gruppi come voi, no? Per come voi intendo gruppi indie. Ha senso dire gruppo indie rock? Sì, ma sì, si usa questo termine, ma indipendenti da che? Cioè, no. Sono le 16:13, Virginiana Miller, diciamo, sanciscono così la definizione di indie, indipendente da chi e da che cosa, giustamente, forse perché si hanno meno soldi delle major. Sì, ma tanto in realtà le major quasi non esistono più, per cui... Ha poco senso, allora, anche ormai direi proprio di sì. Ok, però insomma il rapporto dei fan con i gruppi come voi, che non sono gruppi che hanno, che so io, milioni di fan, ne hanno magari migliaia, delle decine di migliaia, e che spesso conoscono. Certo. E prima vi dicevo, cosa vi hanno regalato ad esempio i fan? E Simone mi ha raccontato... Ti ho fatto un elenco, sì, interessante. Ad esempio ci sono delle pantofole, ci hanno regalato delle pantofole con il simbolo del Davide Donatello, poi ci hanno regalato degli accendini personalizzati con i nostri nomi sopra, delle torte con la copertina del disco. Perdonami, le pantofole col David Donatello le hanno fatte fare apposta? Le cioè hanno fatte, comprato le pantofole? Sì, le hanno fatte fare apposta, proprio sei paia. E tu le usi? Certo che le uso anche per darmi un tono a casa, insomma. 349-238-6666, Virginiana Miller, sono dal vivo qui a Voi Siete Qui nei Mercoledì Live. Tutto questo diventerà un video grazie a Marco Ligabue, che ha in mano una telecamera in questo momento, che verrà postato su tutti i nostri profili social. Avete... che rapporto avete con i social? Voi siete nati quando i social ovviamente non esistevano. Non c'erano, però poi abbiamo stabilito un rapporto, quello che hanno tutti, insomma, di dipendenza totale da questo. Quindi, mi aspettavo un rapporto garbato, invece no, proprio no, totale proprio un rapporto di dipendenza, malato, morboso anche, sì. Quello. Quando suonate in giro da queste parti? Beh, stasera? No, suoniamo domani sera qui a Milano, al Bico, e poi dopodomani a Bergamo, a Druso, e poi torniamo a casa e poi... non lo so. Vabbè, poi basta andare sul vostro sito. Sì, poi basta andare sul sito, c'è Modena, Pisa, perfetto. Firenze. E lì capiamo dove... virginianamiller.com.it 349-238-6666. Ritorniamo a raccontare storie, lo facciamo grazie alla musica dal vivo dei Virginiana Miller. Vi dicevo, è un ragazzino che vaga per la città, c'è un grande temporale, è estate e a un certo punto parte un fulmine. Oggi è una giornata diversa dalle altre. Non sono al lavoro e nemmeno in vacanza. Ho mia moglie all'ospedale per una patologia complicata e giro per dottori cercando di capire come curarla. Oggi a Roma, come nei giorni scorsi, abbiamo un bel temporale, di quelli sonori, con tuoni possenti e gocce che paiono cascate. Il mio lavoro mi piace tantissimo, mi occupa molto tempo, sono sempre in giro e torno a casa la sera, anche tardi. Ma quello che faccio mi dà una grande soddisfazione, quindi quando ho una fatica lo faccio molto volentieri. Uscendo da un ospedale sotto il diluvio, sono salito in macchina e sono partito. Dopo poco più di 50 metri vedo nello specchietto il lampo arancione di una saetta che si schianta a terra esattamente dove ero io un paio di secondi prima. Era 41 anni che non mi succedeva. La volta precedente avevo 4 anni ed ero sempre a Roma, non lontano da dove mi trovavo oggi, a casa dei nonni. Era un pigro pomeriggio di luglio. Giocavo da solo sul piazzale davanti a casa quando scoppia un temporale estivo, come oggi. I temporali estivi hanno un fascino strano perché aiutano e spaventano, rinfrescano e terrorizzano. I cani si nascondono nei pertugi e i bambini si rintanano in casa. Io mi ero riparato nel portico di fronte all'ingresso a guardare il temporale quando all'improvviso vengo accecato da un lampo e quando riapro gli occhi mi ritrovo disteso sul pavimento dentro casa. Quando riesco ad alzarmi mi rendo conto che la mia scarpa destra, una make-up, un paio di scarpe da ginnastica che avevo comprato dopo averle desiderate a lungo, con una suola bianca altissima, ecco, la scarpa era praticamente squagliata sul pavimento del portico. Ero andato vicino alla morte e l'avevo scampata per un soffio. Sono rimasto soltanto scioccato, lì per lì non mi sono assolutamente accorto cosa fosse successo e soprattutto non mi ero accorto di quanto questo lampo fosse arrivato vicino, perché mi ha praticamente toccato, è arrivato per terra a pochi centimetri da dove io ero. Da allora ad oggi ho fatto molte cose pericolose. Mi sono lanciato con il paracadute, ho corso rally africani in moto, ho scalato roccia, neve e ghiaccio. Sono andato per mare e ho perso molti compagni di viaggio, la cui morte mi ha segnato per sempre. Ho vissuto con in mente un proverbio francese che mi raccontava mia nonna, che diceva così: vai dove vuoi, muori dove devi. Virginia Miller live, a voi siete qui, grazie per questo pezzo. Il titolo di questo pezzo esattamente abbiamo... È Lettera di San Paolo agli operai. Brano espressamente richiesto da Confindustria perché venisse suonato esatto. Oggi in diretta qui a Radio 24. Sono sempre le 16:21. Insieme a Simone e Matteo, che non ha microfono ma è qua di fianco, dicevo. Comunque che, erano anni migliori anche per Confindustria. Per tutti. Erano migliori, era quando non c'era il digitale. Infatti, quando non c'era il digitale. I social, ecco. Insomma, anche Confindustria all'epoca se la spassava molto di più. Voi giocate a Burra, come avete detto. Assolutamente sì. Che è un sbaglio o è un gioco da anziani? Lo dico perché da quest'anno ho cominciato a giocarci anch'io, ecco. E di fatto sto entrando... Un gioco da anziani, è adatto insomma alla nostra età, ecco, la sera cosa vuoi fare ora? Non lo so, stavo per chiedertelo, Simone, cosa fanno dei rocker? Perché comunque voi siete dei rocker, no? E dei rocker fanno questo, cioè io vabbè mi alzo non tardissimo la mattina, e faccio una colazione abbastanza abbondante. Sobria, sobria con 2 o 3 biscotti, poi leggo, scrivo, studio, porto fuori il cane. E poi la sera generalmente incontro o proviamo, andiamo alle prove, sì, a suonare, oppure appunto incontro Matteo e la sua compagna, sua moglie, e giochiamo a Burraco e facciamo appunto, io gioco in coppia con la moglie di Matteo, Matteo gioca in coppia con mia moglie, facciamo questa versione soft dello scambio di coppie. Voi non siete, diciamo, possiamo dircelo serenamente, no? Non siete proprio dei giovincelli, no. Giusto? Nel senso che suonate dal 90, quanti anni avevate nel 90? Una ventina? Dunque, se... Una ventina d'anni? Una ventina d'anni. Sì, una ventina. Come si continua a fare la vita del rocker anche a quasi 45? Ma... Dico, vabbè, insomma, passati 40. L'importante è che nel frattempo tu faccia anche tante altre cose, insomma, cioè, diciamo, noi non è che abbiamo avuto, no, questo successo pazzesco da 20 anni, per cui allora poi entri in un mondo. Noi siamo rimasti nel mondo reale, quindi nel frattempo abbiamo fatto anche lavori onesti, abbiamo vissuto questo non lo è, sembra che lo dici abbiamo vissuto vite insomma normali come quelle di tutti, aderenti alla realtà, per cui questo. Quindi si fa altro, certo. Simone, tu appunto scrivi per la letteratura, per i giornali, per i libri, sì. E il cinema, l'esperienza con Paolo Virzì, di fatto hai scritto insieme a lui la sceneggiatura? Sì, insieme a lui e Francesco Bruni, insomma, diciamo, loro due erano gli sceneggiatori, quelli veri, ero un po'... Quindi non vi siete messi al tavolo, perché quando si dice scritta a 4 mani, a 2 mani, come si dica, ci si mette tutti insieme oppure scrivo una roba... Lì era veramente divertente, infatti quando chiamavo a casa dicevo no, sto lavorando, e questi altri due, cioè Paolo e Francesco, ridevano perché in realtà insomma lavoro è un altro, quello era veramente un divertimento, insomma, cioè, ti mettevi lì e tiravi fuori delle idee, ma insomma in un clima di appunto di divertimento, di condivisione. Noi da quando facciamo questo programma, ogni volta che mando un messaggio o chiama al telefono un livornese, noi ci buttiamo proprio mani e piedi, perché abbiamo la sensazione che i livornesi abbiano uno strano sguardo sulla realtà, uno sguardo dire laterale, ma ha poco senso, però uno sguardo livornese, che non so se dipende dal numero di estate che vi bevete, perché uno guarda nei cestini delle strade di Livorno e ci sono solo bricchetti, certo. Tra l'altro solo in bricco, giusto? Solo in bricco, è vero, c'è un consumo pazzesco di estate, tutti ne bevono, tutti tantissimi, e ci sono invece altre bevande che non vengono bevute affatto. Io ricordo con un amico caro perché c'era questa pubblicità in televisione, stappa stappa stappa, sì, certo, il crodino. No? Però noi non l'avevamo mai visto, siamo andati in un bar e neanche loro lo sapevano, cioè non l'avevano mai visto. Ora credo in realtà sia, insomma, si vende anche a Livorno, però sono queste cose strane, cioè questa distribuzione strana geografica di alcune bevande. Ed è vero che non per le bevande, ma è vero però che Livorno era un porto franco e quindi c'erano, sì, dei delinquenti, cioè se eri un criminale, la dico male, potevi andare lì a lavorare per il porto e ti venivano rimessi, diciamo, perché Livorno nasce così, con questa idea granducale delle leggi livornine, che sono questa straordinaria opera di marketing appunto del Granducato di Toscana, che dice vabbè, insomma, potete venire a Livorno, c'è libertà di culto, non si pagano le tasse, quindi popolate. Il bisogno lì era quello di costruire sto porto e popolarlo, perché il porto pisano si era insabbiato, quindi insomma c'era da fondare questa città per lo sbocco al mare dei fiorentini. E Livorno è effettivamente nata così, quindi insomma ci sono venuti un po' da tutte le parti, e spesso per motivi appunto di persecuzione, vuoi da una parte, ma anche proprio per sfuggire alla giustizia. Dobbiamo chiudere, quindi dobbiamo fare il secondo brano, che è Nel recinto dei cani. Nel recinto dei cani, che è tratto da Venga il regno, sì, giusto, che è l'ultimo disco dei Virginiana Miller. Sono le 16:27, siamo dal vivo, siamo a Radio 24. Porgimi il collo, tieni il guinzaglio, io ti voglio bene come a un figlio. I Virginiana Miller live, a voi siete qui. Grazie a Matteo, grazie a Daniele, grazie a Simone, grazie ad Amedeo. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Enrico, sono di Vicenza, la storia di domani è la mia, parla di Messico e dell'iniziazione al viaggio. Questa è la mia storia e io sono qui.